Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Ritratto di Giuseppe Mazzini. Terrorista, no apostolo della libertà, rivoluzionario fallito, no insuperato pensatore politico. Il giudizio su Giuseppe Mazzini è spesso antitetico, ma anche l'uomo era così, assoluto, radicale. Nato a Genova, figlio di un medico, a 16 anni nel 1821 incontra alcuni federati in fuga dopo la repressione dei moti torinesi ed elabora il pensiero che si può, quindi si deve lottare per la libertà della patria. Un senso del dovere laicamente religioso illumina tutta la sua azione cospirativa come il suo pensiero. Vuole un'Italia unita, popolare, anticlericale, democratica, repubblicana. Il risultato è spesso un tragico fallimento, dai moti di Savoia fino alle ultime trame per la Repubblica. Ma per lui vale il giudizio di un nemico come Metternich. Nessuno mi dette maggiori fastidi di un brigante italiano. Magro, pallido, cencioso, ma eloquente come la tempesta, ardente come un apostolo, astuto come un ladro, disinvolto come un commediante, infaticabile come un innamorato. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore.